It's time now to go back to Sarah and Lorenzo. Come al solito, ascolti le parole nuove in italiano, poi in inglese e di nuovo in italiano. Dopo le ripeta. Cominciamo. Olio. Oil. Olio. Olio d'oliva. Olive oil. Olio d'oliva. Saporito. Tasty. Saporito. Il migliore. The best. Il migliore. Del mondo. In the world. Del mondo. La zona. The area. La zona. Ascolti di nuovo queste parole. Saporito, il migliore, olio, del mondo, la zona, olio d'oliva. Ed ora il dialogo. La bruschetta è squisita. The oil is so tasty. L'olio. Certo, l'olio d'oliva toscano è molto saporito. È il migliore del mondo. La zona del Chianti è famosa anche per l'olio, non solo per il vino.